It's getting harder to breathe. Chain smoking your love. Can't be good for my sanity. Can't be good for my lungs. Chain smoking your love. Chain smoking your love. The dark, and still I'm hanging on to the life we had before. I know this cold in love won't lead me to the Lord. Although I'm black and blue, I'm begging you for more. It's getting harder to breathe. Cherry smoking your love. Can't be good for my sanity. Can't be good for my lungs. Chain smoking your love. Chain smoking your love. Chain smoking your love. Chain smoking your love. We watched the water rise and waiting by the shore. Take me. You say we're meant to be, but I've seen your odyssey. I'll be a casualty when morning comes. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, la, la. Yeah, yeah, yeah, it's getting hard. Can't be good for my sanity. Can't be good for my lungs. It's getting harder to be. Chain smoking your love. Can't be good for my sanity. Can't be good for my lungs. Chain smoking your love. Chain smoking your love. Chain smoking your love. E diciamo che questo brano qui era utilizzato in una pubblicità dell'Adidas. Tu dicevi anche di averlo sentito. Sì, in televisione. Io l'avevo visto in giro su Facebook, un video di Facebook. No, mi sembra di averlo visto in televisione io. Invece stai Tony facendo mi... zapping alla sera. Sì, sì, giusto. Invece Tony mi parlavi prima di qualcosa. Eh sì, perché a Berlino, grande capitale, festeggiano i 90 anni della metro. Yeah. Allora, questi che si sono inventati, ma che facciamo, che facciamo? Allora, con l'Adidas hanno creato queste scarpe che all'interno hanno un microchip e il valore dell'intero come dire, abbonamento annuale della rete metropolitana di Berlino, chi comprava queste scarpe a 180 euro, aveva la possibilità di... di usufruire sì, del... e sono passate... subito sono state vendute subito 500 però, pezzi e... è una genialata sì. Vero. E adesso la genialata è chi li sta rivendendo su eBay così perché sono andati via in un attimo 500 pezzi figurati ma tu ti immagini la mattina quando arrivi in metropolitana che apri la borsa apri l'abbonamento beggia passa rimetti via l'abbonamento passi con le scarpe tac e sei passato che non è cioè, male è una genialata non è male. Vero io penso a Milano cosa potrebbero fare un paio di ciabatte non so cioè, perché? No fare il confronto ah. Beh, ma di sto periodo ci vogliono i mammut. Cioè, un freddo alla Madonna. Esagerato. Ma dai, non è vero. No, ma insomma, diciamo che la 702 che prendiamo io e lui, no, i 2-3 gradi a volte li vediamo. Io conosco qualcuno che si perderebbe comunque con l'abbonamento. No, no, anche quella di fianco. Ah, ok. In che senso? Che anche avendo un abbonamento, secondo me, andrebbe... Paga il biglietto. No, andrebbe in giro. Andrei in macchina. Ah, vabbè. Preferisce. C'è questa, diciamo, labirintite con i mezzi pubblici. No, io assolutamente non li so prendere. Veramente. Ammetto il mio deficit. Si vede che siete proprio diversi voi due, eh? Vabbè, così. No, vabbè. Va bene, andiamo a ascoltare. Infatti oggi non gira. Non gira. Se lo vuoi portare a casa tu. come settimana scorsa, ok. Ogni volta ho cercato di venderlo a lui, ma sempre valido. Cioè, di venderlo, di donarlo. Vabbè, allora facciamo un messaggio pubblico, ragazzi. Chi vuole il Domenico ci scriva. Al numero? Allora, al numero 338-222-8983. Se ve lo prendete, mi fate un piacere, grazie. Adesso andiamo ad ascoltare un brano che mi hai chiesto tu. Vediamo se ti ricordi il titolo. Guardalo. Sta partendo, eh. Be happy. Bravissimo. Tell me that you need me now. Cause in my dreams you're still around. You've been gone for quite some time. It finally feels like you're not mine. Will you remember me? Cause I'll remember you, yeah, you. You went out and found somebody new, and that still hurts. It's taken everything inside my bones to say these words. Even if it's not with me, I just want you to be happy. Just want you to be happy. Niente, questo qua era Fernand Branco, che sono di non lo so, saranno di Los Angeles. Sicuramente. Se non sono di Los Angeles, adesso sono di Los Angeles. Ma sicuramente, no, perché devi sapere, nelle puntate precedenti lui mi chiedeva di chi dove sono questo gruppo. Io guardavo Los Angeles, andavamo a vedere un altro gruppo, Los Angeles. Alla fine abbiamo stabilito che praticamente senza volerlo sceglievo sempre pezzi di Los Angeles, non lo so perché, non me lo chiedere. Perché qua fa freddo, Los Angeles c'è il sole. Beh, aspetta, caldo. Che questi giorni mi sa che anche Los Angeles al sono pica, messi... come dicono qua, al pica. E poi ci sono i giorni della merla adesso, tra poco. Mizzica, adesso vedi che ci si caga addosso da freddo. L'ultimo giovedì di gennaio. Sono gli ultimi... Bruciano. Sono tre giorni. Sì, però bruciano la vecchia. La gebbia. Sì, infatti state a casa tutte le persone anziane. Sì, il freddo che fa quest'anno mi sa che è un po' così farlocco. Sì, in effetti diciamo che infatti se volete riscaldarvi vi volevo dare un po' di consigli di dove non andare in vacanza. Bravissimo, siamo tutti orecchie. Perfetto. Allora, c'è una spiaggia in Brasile. Una spiaggia bellissima, perché guardala, dimmi se non è bella. Adesso la descriviamo. Ok. Praticamente, no, questa non è una spiaggia. No, eccola qua. Praticamente è una spiaggia bianchissima, completamente lunghissima, poi tra l'altro di sai quelle sabbie bianche, no? Peccato che si dica che di essere una delle spiagge più pericolose al mondo, si trova in Brasile, perché è piena di squali. Ma proprio piena zeppa. Vabbè, chi non se lo vuole? Pacchino, no, se lo vuole fare un giretto, una nuotatina con gli squali. No, ma tra l'altro, che so, tipo nelle varie isole tipo Baleari, così, ci sono gli squali, ma di piccole dimensioni uno dici? Può. Sì? Sì, sì. Quelli? Deborah, hai visto qualche squalo da quelle parti? Ah, ci siete andati? Baleari. Ah, bravo. Però ci sono anche tipo le immersioni, non ti fanno niente. Qua in realtà ci sono solo squali tigre. Cioè, proprio. Un po', mettiamo lo squalo bianco. Quindi, cioè, se dovete mandare qualcuno, allora, diciamo. Scusa, dovrebbe essere in Africa? No, scusa. No, perché? Non l'ho capito. Tigre Africa. Aspetta, che lo defenestro. Sto avendo il degenero del lunedì e non dico altro. Siamo dal lunedì, bravo. Infatti. Comunque, dicevo, se volete tanto bene a qualcuno, sai che adesso ci sono i pacchetti vacanze, regalategli una bella vacanza a Boa Vingham o Porto Suape. Ok, adesso vado a cercare. La Cris sta già prenotando. Dopo ci il va messaggio lei, di ci va lei, ci va no, lei. No, regalo. Tu hai detto regalo e io regalo. Sei cofanetti tipo smart box così, magari c'è. Cioè, dovrei andare amico... ad informarmi. La scatoletta è a forma di pinna, no? Ti ha fatto, cioè... fatto un brutto regalo di Natale, non ti preoccupare. Vero. Vabbè. Comunque, dimmi tutto. Ho fatto una piccola ricerca e effettivamente sono di Los Angeles. Eccolo adesso. Cioè, è andata un attimo. Dove è andata? C'è andata. Perché si chiamano Frende? Perché sono pugliesi, no? Frende. C'è rap. No, ma perché c'è sta moda comunque nei gruppi di musica elettronica di fare il nome senza le consonanti? No, non so, forse sì, perché sì. Magari pagando la SIAE risparmiano sulle lettere. Sì. E quindi sarebbe? Sarà il diminutivo di Friend. Yes. Togli le vocali, diventerà Friend. Ma sei avanti allora, eh? T'hai visto. Beh, avanti, ragazzo. Come diceva la mia nonna, quel ragazzo lì ha fatto le scuole alte. Scuole alte? Sì, high school. Ah, ecco la battuta. Beh, comunque, stavamo parlando quindi di squali tigre. Adesso cambiamo completamente argomento e parliamo dei gorilla. Perché il prossimo brano, prova a vedere qual è. Questo è un bel classico, eh? I gorilla. Cioè, guarda che, come si dice, connessioni mentali che ti ho fatto. Se l'hai studiata già da una settimana. Sì, è una settimana che se lo segnava. Infatti in treno non hai visto che era lì che scriveva le cazzate che doveva dire. Diciamo brano, che è un gran pezzo. Sì, è un brano associato, è molto vecchio. Ed è un brano associato, non lo so, adesso andiamo a informarci. Più di 10 anni probabilmente. Sì. Ma è un brano associato soprattutto ai conti corrente, diciamo. Mettiamola così. Sì. Non ti, adesso vedrai che ti dirà qualcosa. Dopo la risata. Thank you. sto ancora ballando. Sì, a me è venuta voglia di andare a aprire un conto corrente. Ma sai, collegarmi a prima. Ma sai come si sono conosciuti i Gorillaz? Sì, ma te lo faccio dire. Perché mi fare figo della situazione. No, ma diciamo. Perché avevo fatto anche una cosa simile come loro. Vai. Allora, il cantante dei Blur. Sì. Ok. Cioè, oddio, non è che ho fatto una cosa simile a un cantante dei Blur. E si sono conosciuti su una chat. Sì. Il cantante dei Blur con questi altri ragazzi. Uno di questi è un fumettista che ha ideato i disegni dei video musicali dei Gorillaz. Poi c'è, mi sembra, un effettista. E poi tutto il resto è stato scritto dal cantante dei Blur. E sono nati tempo un'oretta di chat. Sì. Ma l'effettista, sai che mi viene in mente? È presente quello di Scuola di Polizia? Ah, quello di colore. Sì. Quello che faceva tutti gli effetti. Come si chiamava? Cerca su internet. Nella Scuola di Polizia mi ricordo Maoni. Però Hightower, bravissimo. Hightower era quello cattivo, lo vedete? No, Hightower era quello grosso. Quello alto, il nero. Sì. Quello buono. Poi c'era quello che faceva. Se te lo trovi davanti da uno sganassone che caga da solo. Sì, faceva paura, ma è normale. E sono stati anche in Italia Gorillaz dalle nostre parti, dal Bizzate, se vi ricordate. Ma no. Sì. Beh, il gruppo non c'era, però è una specie di... non so, lo spettacolo era con immagini... Non so quanti esistevano veramente del vero gruppo. Mi sa che era un DJ, però che faceva parte. Sì, sì, è una brutta moda. È una brutta moda questa, però. È tipo quelli dei Pendulum che stanno suonando in giro. No, ma magari... credo che proprio è lo spettacolo proprio dei Gorillaz, perché non esistono. Ma infatti, guarda, proprio per collegarmi a questa cosa qua, io prima di partire leggo Pendulum a Cassano Magnago. Ed eri già lì come me a cercare a Cassano Magnago e Pendulum. Il pendolino e il Cassano Magnago. Poi vado a scoprire che in realtà era un tizio che faceva il DJ set dei Pendulum. Sì, era ufficiale dei Pendulum, ma non c'era nessuno del gruppo e non hanno fatto nessuno. Ah sì, è vero che questa cosa dei gruppi che poi sotto c'è scritto DJ set. Sì. Ok, vabbè. Fitness DJ set e via dicendo. Che poi è giusto per dire, cioè, se sei uno che suoni, perché ti chiami DJ set? Sono sempre presenti questi DJ set. DJ nome, set è il cognome, precisiamolo. Ah, okay. Perché non devi evitare che poi su internet sbagliano. Infatti, magari uno fa una ricerca. E vabbè, dopo questa maria di andiamo ad ascoltare adesso, che sono curioso. Andiamo ad ascoltare uno dei brani che ascoltavamo tempo fa all'inizio, diciamo, di Wolf Trips. Orso Nero. Orso Nero, bravo. Black Beer con Chateau. Non è Base Chemical Brothers. No, Base Chemical Brothers l'ascoltiamo sempre. È un pezzo che ritorna sempre. Andiamo ad ascoltarlo. Sono sempre in mente. Had a hard man, I'm trying to get it back, dog. Trying to get it back, trying to get it back, trying to get it back. Age 25 and I'm rich now. No excuse, you'll be acting like a bitch now. I gave you diamond to pull right the checklist. She want a ring, ain't fucking with a necklace. I'm a fool for these things with the big butts. Take a homebody, turn her to a rich slut. Feel like I can't trust nobody, even day ones. Watch out for them snake ones. Sweet Benji today at the chateau. Had a heart, man, I'm trying to get it back, girl. Lightning, let's go. Please, baby, talk slow, I'm off the blow, I'm off the draw, I'm in my zone. Grab your girls, grab your phone, and let's go. Get ready, we going to the chateau. Legs around my neck, I got your nails up in my bag. Get ready, we going to the chateau. No love, no love, no love, no love, just fucking in a California cave. Sweet 23 at the chateau. Had a hard man, I'm trying to get it back, dog. Trying to get it back, trying to get it back, trying to get it back. Age 25 and I'm rich now. No excuse, you'll be acting like a bitch now. I give you diamond to pull right the checklist. She want a ring, ain't fucking with a necklace. I'm a fool for these things with the big butts. Take a homebody, turn into a rich slut. Feel like I can't trust nobody, even day ones. Watch out for them snake ones. Sweet Benji today at the chateau. Had a heart, man, I'm trying to get it back, dog. White linen, white rose, let's go. Oh, oh. So please, baby, talk slow, I'm off the blow, I'm off the draw, I'm in my zone, grab your girls, grab your phone, and let's go, get ready, we going to the chateau, legs around my neck, I got got your nails up in my bag. Get ready, we go into the set. So no love, no love, no love, no love. Just fucking in a California game. Trips, i viaggi del lupo. Preparatevi per un'ora di musica underground, solo su Radio Lupo Solitario. Sono i Portugal The Man, mi raccomando, da non confondere, perché tu mi dicevi che Brasil, no vabbè, perché effettivamente c'è una voce che sembra un po' femminile, quello sì. No, ma che non è la prima volta che sento una voce che non aspetta, è aspetta, no, devo fare una cosa, Stella. No, spieghiamo perché sembra una stupidata. Praticamente è una stupidata. Cioè, praticamente sono rientrate due persone dello staff della radio e stavano entrando a mo' di 1, 2, 3 Stella. Quindi con Stella li ho dovuti far blocco. Stella! Beccato. Eliminato. Ma deve essere più, come dire, più moderno. Breeze! No, queste cose qua da Grande Fratello, no, dai. No, non so se arriva dal Grande Fratello, ma penso che è una cosa che rivida l'America. Cioè, non è che l'hanno inventato loro il breeze. Davvero? Vabbè. E niente, quindi stavamo parlando di Portugal The Man, che l'abbiamo ascoltato adesso, e lui diceva, Portugal The Man dovrebbero essere tutti uomini e c'è una voce femminile. L'hai detto come sembrava una bestia, Portugal The Man. Portugal The Man. Voce femminile. No, in realtà no, c'è una voce che sembra comunque maschile lo stesso. Ma poi non è un gruppo, io ero convinto che era un gruppo rock. Ma perché vecchio stile si è... Sì, sì, sì, sì, sì, no, no, no. Maroni? No, no, ma loro Maroni sono... si è rotto, se n'è andato. Cioè. No, no, loro sono... Ma sai che quando ti stringi Maroni... Come? Ah, sì. La... Prova? No, no, mi viene in mente la frase... Ho della... appena fatto! No, la scena finale dell'allenatore del pallone, vabbè. Che se, chi se la ricorda? Non me la ricordo. Ricordo il film? Non si può dire, ma è bellissimo. Ah, penso vero. Che sia uno dei migliori quattro scene di film mai visti. Vero, italiano. Vero. Vabbè, adesso invece parliamo un po' del brano che ci vuoi proporre tu per la tua rubrichetta. Allora, la aspetta, rubrichetta. Aspetta, che adesso mi devo mettere seriamente. Ragazzi, si sta spogliando il ragazzo. Cioè, fai attenzione, sai. Sono ancora vai, un ragazzo. Toni, non sono il cantante di Portugal The Man. Allora. Beh, allora, la mia rubrica si chiama Mezza Tonica, caro Fabio, tu non lo sai ma te lo dico. No, sono arrivato adesso. Così, quindi... no, ma me lo ricordo anch'io, se no me lo dimentico. E praticamente è una selezione di due brani, uno adesso, uno fa un'ora, e di canzoni che secondo me potrebbero essere suonate in un DJ set, in una, sulla spiaggia, al tramonto. Ma in scene abbastanza buone, nel senso dici sulla spiaggia con una ragazza ci concludo? O... Beh, quello dipende dalla situazione. E no, ma va che il sound fa, cioè... Ok, allora ci sta, sì, dai. La valuterò io. Va bene, da che selezione. Va bene, va bene, va bene. Allora, adesso l'annuncio o la facciamo sentire subito e poi la commentiamo? Come vuoi, come vuoi. Dai, facciamola sentire prima. Ok, allora andiamo ad ascoltarcela, così poi dopo ci dirai. There's no reason we should give in. There's no reason we should stop. And we're breaking down or hold us in, 'cause this is all we've got. Pictures never perfect. We were broken from the start, but the pieces fit together now. They fall apart. Allora, sono ripreso. È stato un attimo di amnesia. No, no, mi è venuto un po' di granello di sabbia allora, della devo gola. Dirti per una dire. Cosa. Bravo, eh. Questa canzone qua potrebbe essere promossa, perché comunque ha un suo certo sound un po'... Beh, ma è anche un pezzo famosissimo. Cioè, adesso io non è che ho tirato no, fuori... parlavo nelle situazioni da spiaggia sì, da sì, concludere. Sì, sì, ma infatti appunto... selezionatela nel vostro MP3, ragazzi, quando di spiaggia che... potrebbe essere buona. E ci sono altre versioni ancora più, diciamo, da spiaggia di questa canzone. Ma come dicevo prima, lui nella voce mi ricorda un po' Bono Vox. Direi proprio di sì. Non avevo fatto subito caso, però è vero. Cioè, magari fossero io due, perché adesso lasciamo stare. Però comunque loro sono i Dirty Vegas, sono un duo inglese, che già nel 2004 erano diventati famosi con una canzone, Days Go By, che è andata bene anche in Italia. Hanno vinto anche 2 Grammy, penso a te. Poi si sono sciolti e adesso ultimamente sono tornati... Hanno fatto una reunion. Un duo. L'anno scorso che dovevamo fare la reunion, ci siamo saltati i Dirty Cosi. I Dirty Vegas. I Dirty Cosi. I Vegas Cosi. E niente, beh. E questa era la prima mezzatonica. Bella, ci sta. Quindi poi più tardi ascolteremo l'altra mezzatonica, che dobbiamo arrivare. Io non ci sarò, me la postate io. Sì, ma vi dico. Sì. Va bene. La prossima volta, venerdì prossimo, se non hai impegni. Ragazzi, se... ho saltato due. Beh, prima quante ce ne hai fatto? Vabbè, che noi diciamo eravamo che qua. Ho avuto un po' di tavolate a cui presenziare. Diciamo che sei tornato con la panza piena. Ne sei uscito con le tue gambe? Ah, cioè lui prima era così come me, praticamente. Sì, io ero come te, più o meno. Poi sono le mi chiamavano lo smilzo. Dopo le cene di Natale. Adesso mi chiamano il manzo, cioè capisci da smilza manzo. Pensa quando ti chiamano tagliata. Basta. Ma Fabio, vabbè, la cena non è che non puoi dire di no. Poi quando prendi in macchina, fai segnare la croce, ci spiego, non mi fermo. Ah, ok, perfetto. Guarda, dopo che hai detto non lo fate. Bravo, infatti, dopo che hai detto questa cosa, ci abbiamo già i vigili qua fuori che ci aspettano per l'alcol test fuori dalla mi chiamo radio. Giulio. Vabbè, io direi che continuiamo con un po' di musica. E che cosa mi vuoi proporre? Abbiamo un pezzo che abbiamo ascoltato settimana scorsa con lui, è Mobby. Mobby. Lo conosci? Mobbing, Mobby? Quello che mi fa lui. No, Mobby, no, Mobby. La balena. Mobby Dick. Sì, c'è la balena Mobby Dick, c'è tante cose. Cioè, beh, il riferimento è... C'è il mobbing, quello che mi fa mobbing. Lui. C'è lo smobbing anche. Lo smobbing. Vabbè, niente, questo qua però in realtà è Mobby con Flower. E poi dopo... Quindi la balena con i fiori? Sì. Un vaso. Un vaso bianco con i fiori. È un brano molto conosciuto. Andiamo ad ascoltarcelo. Occhi d'occhi. Down, left on spot, gotta tear the ground. dei fiori, grazie. Fiori. Ci sta però. Tra l'altro è anche la colonna sonora di Fuori in 60 secondi. Mi devo dirlo veloce. Però, sì, tutti fiori, dei fiori fuori in 60 secondi. Anno 2000, pensa quanto siamo vecchie. Sì, io nel 2000, anno 2000. Avevo l'album già... così, la play? No, quello dopo. No, era. Guarda che non lo sa. Mi trovi sempre impreparato. Però devo dirti la verità, stavo leggendo un po' di notizie in giro su Moby e stavamo commentando prima che secondo noi ci è rimasto un po' sotto perché nel senso è basso. No, sotto diciamo con le sostanze, come diciamo. Ah, ecco. Perché è bravissimo a produrre, ma boh. A parte che si sta, è uno dei tanti artisti che è schierato contro Trump, sai che sono tutti gli artisti americani, tipo anche Katy Perry, Lady Gaga, sono tutti schierati contro. Però lui va a dire delle cose, cioè tipo un agente della CIA mi ha detto di diffondere nel mondo la notizia della collusione tra Trump e la Russia. Ma sembrano quelle cose tipo degli alieni, no? Esente, sono stato rapito da un alieno. Beh, Moby mi dà di alieno, eh. Sì, un pochettino. È molto strano come personaggio. La fronte alta. Un pochettino. Ovale. Diciamo che lui è da festa in piazza. Ah, ok. Era brutta questa. Lo invitiamo alla prossima festa di Radio Lupo. No, allora. Ma qualcuno che c'è vicino a te non deve proprio parlare, perché pure sei lui. Cattivo, no, dai. Io guarda. Il passaggio in macchina è sempre... No, ma la macchina è la mia, quindi volendo... È lei che si sta dando un autopassaggio in macchina, mettiamola così. No, ma Tony... Cosa? È la verità, guardalo. Vabbè, è così, ma... devi farci. Gli anni avanzano anche per lui, intanto... Diventerà bello come Moby, ecco, ti è. Sì, infatti. Intanto dicevo al buon Fabio che questa settimana mi sa che è stata bella tosta, perché ti vedo fare delle... spalancare le tue fauci più volte. Ho un po' di sonno. Quindi stai scaricando la settimana adesso, mettiamola così. No, bello che poi c'è la felpa su Spagna. Dunque, fiesta. Sombrero. Ragazzi, ore 9 vi saluto, ore 9 e mezza sono nel letto. Dove che abiti? Io non lo so. Gallarate. Ah, cioè di mezz'ora. mezz'ora entri in casa, ti svesti, doccia. Letto. Giustamente. Certo. Beh, ma comunque Fabio, dillo che questa felpa l'hai presa ai tempi d'oro. Questa felpa qua l'ho presa quello che sta all'incrocio che vende le rose. Ciao Mecca, una felpa, io prendo felpa. Infatti vedi, salutiamo Ramon della Vega. Rosario del semaforo. Rosalindo perché è spanico. Quindi, è così. Vabbè, passiamo al... non so se la conosci, Lord. Lord, sì. Ne abbiamo già parlato. Bellissima Lord. Lord, no, Lord. La Lord. Sì, ti che però è pulit. È un altro, va. Vabbè, ma sai che qua poi c'è il degenero, si spara un po' così, a destra, a sinistra, manca. Comunque... Sì? Io avevo trovato pure un'informazione. Ah, ragazzi, allora... la nostra qui ha trovato una chicca che è così chicca che è quasi checca. Sentiamola. Guarda che questa me la sono preparata a casa. Come te la devo dire? Vai, metti un sottofondo, dai. Tipo quando arriva il meteo ogni tanto, dai. No, aspetta. C'era una supposta che fosse... Aspetta, io non so che notizia sia, però ho la cosa giusta. Vai, se mi date un secondo. Sentiamo qua. Oh, mamma. La presento io. Vai. Ragazzi, dopo un anno che continuiamo a parlare di questo gruppo, questi famosi Freunde, dicendo al plurale che sono ragazzi e ragazze e non sappiamo se sono maschi o femmine, la nostra agente segreto della CIA che ha parlato anche con Moby, Cristina, ha scoperto che abbiamo fatto 2 anni di recazzate. I Freunde è una persona sola e adesso me ne vado. E con questo andiamo ad ascoltare abbiamo il prossimo brano. Andiamo ad ascoltare Lord con Greenlight. Va. Vabbè, ascoltiamoci Lord, dai. We ordered different drinks at the same bars. I know about what you did and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach, you're such a damn liar. Well, those great whites, they have big teeth. Well, they bite you, thought you said that you would always be in love. But you're not in love, no more. Did it frighten you how we kissed when we danced on the light of floor, on the light of floor? But I hear sounds in my mind, brand new sounds in my mind. Up in a different bedroom, I whisper things, the city sings them back to you. Well, those rumors, they have big teeth. Hope they bite you. Thought you said that you would always be in love, but you're not in love no more. Did it frighten you how we kissed when we danced on the light up floor, on the light of floor? But I hear sounds in my mind, brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you. Abbiamo sul sottofondo ancora Lord con Greenlight e c'è Tony che si sta crucciando. Sì, sì, per non mi ricordo soprattutto i cori, se una canzone italiana ha copiato. O magari il contrario, non è, è nuovissima la canzone. Sì, dai. Cioè, è di marzo 2017. Un plagio estero. No, no, può essere che probabilmente anche una versione italiana, no? Però sì, sai che non mi viene in mente l'associazione sulla canzone italiana. Mi sembra una cosa tipo Neck, una roba del genere. No, diciamo che Neck lui ha fatto diversi plagi, eh. Ha copiato la canzone dei Sum 41. Sì, non lo riconosce. Però rimane comunque un sì, bel film. Sì, lasciamo perdere, ecco. Ascoltate, sì, sì, voi sì, andate a vedere. Io mi guardo Neck, carità, mi guardo... un bel ragazzo, un bel uomo. Ma che occhi, cioè, anch'io ho due occhi, vuol dire. Io ho anche il naso. Vabbè, però ognuno non c'è... potete competere, basta. Cioè... Diciamo che ognuno si porta a casa le sue cose, le cose sue. Cioè, quando infatti... le mie cose, mi porto a casa le mie cose. A così. Te devo fare ancora il mazzo. Sì? Di carte. No, no. Senti, racconta sta storia, almeno tutti lo sanno. No, dai, no, dai, no. Dai, dai. Se vuoi la racconti tu. Praticamente mi sono preso delle botte stamattina. Così gratis proprio. Perché ho fatto delle cose che non dovevo fare nel sogno. Ah, ecco. Nel suo sogno, capito? Ma il discorso, sai cos'è? Che io ho detto, ma cacchio, ma fammelo realizzare sto sogno. Adesso sono curioso, ma che sogno era? Adesso glielo puoi raccontare, e dai. Anche le ha prese doppie. Fammelo realizzare il doppio, te ne do. Dai, praticamente, vabbè, stavamo facendo un'intervista. Nel sogno. A nel chi? Sogno. A chi? Dai, perché i sogni al poi... Al mitico Claudio. Claudio Baglio. Coccoluto? No. No. Claudio Lancinaus? No. No. Claudio Baglioni? No. No. Per la conduzione di Sanremo? No. Lo sogno l'ha sparato in grande la ragazza, eh? E quando sogno... Ah, per via dei fiori della canzone prima, sai? Sì, sì. Sanremo è il paese dei fiori. E praticamente, mentre io ero lì a dire che cacchio devo fare, aspetta, devo... questo... questo che vedete dall'altra parte in regia, me medesimo, è andato a cena con due ventenni. Ma tu non lo sapevi, una era sua e una era mia. Cioè, vabbè, veramente, al che io ho detto, ma chi era? Sono svegliata, ero incazzata già di una prima castagna mattina. Sul naso, proprio come sveglia. E io volevo sapere chi fossero, cioè, almeno. Ti do il numero dopo, io l'ho preso. Okay. Stardi. Vabbè, così. Si parla di sogni, dunque hai preso il numero. E certo. Quindi c'è qualcuno che ancora le deve prendere. Ah, l'ho capito adesso. E svegliati. Sì, certo, si parla di sogni. È tutto il tempo che sbadiglio. Andiamo a giocarli. Se qualcuno sa che numeri ho dato col mio sogno. 220. 220. Sì, esatto. Li ho già giocati, ho già perso. È una scossa questa. È vero, è una scossa. 220. Perché 20? 220. La 220. Ah, 220. Sì, sì, però sono due ragazzi, numeri, no? Sì, non l'ha capito. Se mai puoi giocare il 2, diamo i numeri. Facciamo tipo momento Mago Telma. Sulla ruota di Milano. Giochiamo il 2, il 20 e il 40. Perché 220. 220. Ah. Quindi 20 più 20, 40. E se facciamo, non so, 18? 18, sei no. Ancora è maggiorenne, eh? No, cioè, sappi che sei in borderline. Borderline, sì, sì, sì, è così. Sappi che adesso questo telefono ti distruggerà la fronte. Vabbè, ma ascoltiamo attenzione. Un po' di musica. No, aspetta che qua c'è... Ah, sì. Adesso ho capito chi ha copiato Lord. Mi sembra Tiziano Ferro. Ah. Lo stadio. La nostra Deborina. La gente, nanana. Hai detto qualcosa, sei andato a cercare. Io non seguo Ferro, ma salutiamo, ti do ragione. Salutiamo anche Debora, perché la dobbiamo salutare, ovviamente. Ciao, Debora. È la nostra Deborina. È un'altra che ammazza la gente nei sogni, perché anzi, dal vero, perché anche lei sogna che io mi faccio queste donne. Se ma sapere chi sono, cioè, quello è il problema. Appunto, ma non ha... Cioè, ai, qua è peggio, ai, dunque, era la donna dei miei sogni. Sì. Vedo canzone. C'è un coltello che si, c'è l'aria che si taglia con un coltello. Ragazzi, io tra 10 minuti vado, poi vi potete ammazzare come volete. Tranquillamente. Ci guardi dalla webcam. Ammazziamo la noia. Andiamo ad ascoltare il prossimo brano, che è dei Powers. Ecco, appunto. Mi ricordo una canzone che ho messo io la settimana scorsa. I Rangers. Bravissimo. Ciao. Il brano si chiama Evi. Andare via prima no, give you up, it's heavy, heavy, oh, it's just so bad. Abbiamo il Trio Power. Il trio? Trio Power? Trio Power. Fabio, tra l'altro, è qua con due donne, quindi... Quindi adesso sei tu nel sogno, quindi... Hai visto? Adesso uscirai con la Adesso mi prendo i cazzotti uscendo. Domani... Domani la tua compagna sarà ben felice di tirarti quattro mazzate. Ma come torna a casa? Come si chiama? Come si chiama? La mia compagna, sì. Sabrina. La salutiamo. Ciao Sabri. Ciao Sabri. Ha detto che non vuole venire perché siamo brutti. Vieni a trovarci qualche giorno. Siamo brutti e sporchi. Ha detto che non viene. Non viene. E cattivi. No, cattiva sei te. Io! Noi siamo brutti e sporchi. Ma io sono innocuo, prima di uscire di casa me lo taglio e lo uso come portachiavi, io, cioè, funziona veramente? Così, è certo, da buon siciliano, cioè, non è che si scappa su cioè, quello. Adesso Domenico dice... son cacchi sono tuoi. Neoluco. Ma perché devi perché dare queste notizie? Così, però il portachiavi me lo tengo io. Queste non il sono buone idee, me lo tengo io. Io. Queste non sono buone idee. Vabbè, continuiamo, facciamo così, facciamo finta di niente, ma passiamo avanti. Cioè, mettiamo della musica stupenda, ma poi quando parliamo facciamo cagare. Di quelle grandissime chiacchiere da bar. Altro che chiacchiere da bar, soprattutto in questo periodo. Ma tra l'altro, nessuno l'ha capito, vabbè. No, stiamo sorvolando, facciamo finta di niente. È un momento che ci sono tanti di chiacchiere. Perché? Perché siamo carnevale. Carnevale, no? Cazzarola. L'ho ammazzato. Ma guarda, a me manca poco, due minuti vado. No, me l'avevo studiata meglio, però cavolo, mi è uscita in un po' così. In questa radio non c'è più una disciplina. Comunque, io ogni puntata faccio una cover, no, per presentare la puntata. Vedete quello che ho scritto? Chiacchiere da bar. Ho scritto, vabbè, Wolf Trip Chart, che saranno poi le canzoni, Mezzatonica, che adesso mettiamo l'altro brano. Ma non ci credo. And Chiacchiere da bar. Non ci voglio credere. Sì, ma io non ho commentato, ho detto boh, magari. Ragazzi, però se dite che io qua almeno una birretta la devo avere, cioè non ho capito. Tu sì, al bar cosa vero, fai? Io lo continuo a dire, Anch'io dovrei portare una tonica, una mezza, Fabio. Niente, neanche bravo. L'acqua ho portato stasera. Ma no, l'acqua se vuoi c'è, se sei coraggioso. Sei coraggioso, dai. Sì, se mi si chiudeva prima la gola adesso. Vai Tony, siamo tutti con te. Allora fatelo prima voi. Allora, no. C'è un girino. Ti supportiamo. Altre forme di vita. Vabbè, è pensa una... che quella bottiglia prima di essere blu era bianca. Ma questa qua viene da Lourdes. Questa qua viene da Lourdes. Ah, ecco. Da Lourdes. Se la bevi ti fai miracoli. Vabbè, continuiamo con un brano, va, che almeno ti lasciamo andare. No, tu rimani ancora o vai adesso? No, vabbè, vado via. Allora niente, dai. Ciao, ti salutiamo buon con questo brano. Ragasciuoli, è il momento di andare. Noi ci vediamo lunedì che dobbiamo fare le nostre cose malate. Bellissimo. Che schifo, ragazzi. Nei sogni noi abbiamo da fare, non ho capito. Guarda che se vuoi venire ti chiamiamo. C'è il posticino? Certo, una terza la troviamo. E andiamo ad ascoltarci Queens of Stone Age. Conosci? Sì. Tu, io no. Però devono avere 20 anni. Col brano Tranquilla, Day Way. Nei sogni. Parla perché loro... Io parlo perché tanto. Anzi guarda, facciamo così. Ecco adesso. Così loro vanno avanti a parlare per i fatti loro. Noi così parliamo. Stai dicendo col brano The Way You Use It To Do. Ok. Conosci? No. E adesso lo conosci. We run when I way you used to. To do. E loro sono i Queen of Stone Age. Ogni volta mi impappino a dirlo, è una cosa impressionante. Hai difficoltà a dire i titoli? Sì, stasera sì, stasera sì. Devo fare uno scioglilingua prima di iniziare la puntata. Che tra l'altro loro si definiscono alternative rock statunitense. Che quando sento alternative rock, secondo me vuol dire niente. Cioè, che cacchio vuol dire alternative rock? No, perché alternative io non sono in Inghilterra. Cioè, e no, in realtà hanno sviluppato il genere stoner rock. Quello sì. Lo stoner sì, beh. È un genere, dai. Non è molto affermato da noi, però. Come al solito, come sempre tutte le cose. È un po' come tutto il rock ultimamente. Sì, da noi. Siamo proprio alla nicchia della musica mondiale. Tra l'altro adesso inizierà Sanremo. Voglio vedere se c'è qualcosa di interessante. Beh, oppure se le solite robe pop. No, c'è Liam Gallagher. Sì? E beh, Sting. No, ma dico a livello italiano, nuove proposte interessanti. No, sembra solita, no? Ancora non ho visto nessun. Io ho letto qualche nome. Qualcuno che, per esempio, c'è, vabbè, gli Elio e le Storie Tese. Ancora? Che faranno. Sì, faranno proprio il pezzo di addio. Cioè, da un anno che dicono che si sciolgono. Sai com'è? Come si dice? La pecunia. Sinceramente. Pecunia docet. Va bene. Però mi sembra che quest'anno non ci siano categorie, sono tutti insieme, se non sì, sbaglio. Sì, sì, sì, sì, sì. Sembra che Baglioni ha voluto fare questa cosa, meno canzoni d'amore, ho letto. Meno male. Canzoni che durano almeno 4 minuti, cioè, sembra che un po'. Vabbè, vediamo, quindi sì, beh, tu poi hai trovato qualche, quindi c'era qualche, già qualche ospite straniero, mi hai detto. Allora, quelli che ho sentito erano Sting, artisti internazionali, Sting, Liam Gallagher, sì, e Laura Pausini. Straniero. Cioè, sì, viene come ospite internazionale, no? Ah, perché praticamente è in spagnolo. Infatti. E la particolarità è che quello che ha detto Baglioni vuole che loro, beh, pezzo la Pausini, ok, devono cantare una canzone in italiano. Ah. Cioè proprio cantare in italiano, cioè non è che mi sembra, non so, Liam Gallagher ho come l'impressione Sting, che vabbè, già ha fatto Muoio per te. Sì. Ai tempi, bellissima canzone, stupenda. Ho come l'impressione che dopo questo festival Baglioni farà come Baglioni. Speriamo. No, ma speriamo un po' tutto il movimento di... No, non morirà mai, non morirà mai. No, quello no, no, stiamo scherzando. Cioè, su questo mai. Però saremo... Però è sempre lì. Sono quelle cose che l'Italia è un po' come... Il cavaliere, diciamo. Sì, sì, sì, sì. Ritorno, anzi, sempre lì. Vabbè. È un paese per giovani. Andiamo a ascoltare il prossimo brano. Capital City. Adesso stiamo andando un po' sul commerciale oggi. Sembrava una canzone degli Eurythmics. È vero. I don't care what the circumstances. I don't care what my other plans is. I'm here for you, so take advantage. I don't care what the circumstances. Like even if the president says you need to come to my defense, I tell her sorry, no offenses, but someone needs my full attention. Beh, questi erano proprio, stiamo parlando adesso infatti, conosciuti per altri pezzi, ecco, mettiamola così. Sì, Safe Sound, uscita 3-4 anni fa. Sì. Pezzo estivo, mi sembra, dell'estate. Poi hanno fatto anche dei bei video dei loro brani. Sì, è vero. Delle cose un po' particolari, loro scontate. Sono americani, giusto? Sì. Loro sono americani, sì. E chiudiamo adesso, diciamo adesso, no, abbiamo già chiuso un'ora. Dobbiamo riprendere l'ora successiva, effettivamente. E, il prossimo brano è un brano degli Odessa. Cavolo, ma che cacchio di nome è? Ma questi che... È Odessa. Anche questi così. Sono americani? Questi no, non sono americani, perché sono dei paesi nordici, ecco, mettiamola così. C'è tutto questo movimento dei paesi nordici, della musica elettronica, stile... Adesso non mi ricordo di preciso, ma dovrebbe essere tipo Danimarca, cosa del genere. Mm-hmm. E no, la cosa interessante è che avevo... fatto un po' di ricerche e sono, diciamo, quotati per i Grammy Awards del 2018. E saranno quando? Saranno solitamente, li fanno d'estate. I Grammy? I Grammy, sì, sulla musica. Davvero? Mi sembra. Non sono i Grammys. No. Sì, quelli li fa Stephen King. No, credo che i Grammy siano adesso. Cioè, il periodo... Musicali? Sì, perché il periodo anche degli Oscar. Va bene. Ci andiamo a informare su questa cosa qua. E, però loro dicono di essere un po' troppo impegnati, diciamo. Quindi non so neanche se parteciperanno alla premiazione. Pensa un po'. Quindi magari vinceranno anche. E snobberanno la premiazione dei Grammy. Mi sembra come un certo Bob Dylan. Bravo. Cioè, bravo. Mi sa che lo sgarro, perché magari loro sono svedesi come i primi Nobel. E loro dicono, ah, ecco lui, Sì. Non è che siamo la stessa portata. Però loro sono molto giovani, nel senso... Sì, ho visto non la sono... foto, sì. Ci avranno 19, 20 anni. Produttori DJ. Il binomio che c'è adesso. È il classico... C'è qualcuno che mi sta spulciando, ma non so. Vabbè. Metti di colorino. Facciamo così, andiamo ad ascoltare il brano di questi qua degli Odessa e poi valutiamo se sono meritevoli di un Grammy o meno. Ah, ok, sì, no. Line of Sight. I'm facing back to front, over my shoulder at the sun, and it's an open door, and I've my line of sight once more. And now you wait up and all I live. And now you wait anymore. Signorina? Dica. Ci sei? Certo. Ti abbiamo colto un flagrante, in flagranza di reato. Cioè, lui lo fa nei sogni, te invece lo fai veramente. No, io veramente stavo messaggiando con l'amante, ma non diciamolo a nessuno. Vedi, così, vedi, almeno. Poi sono io. Ma senti un po', ma il centro Epson oggi fallisce? Il centro Epson oggi... però io voglio la musichetta, cioè, scusami. Allora facciamo così, aspettiamo il prossimo brano, perché la musichetta, le cose, ci vuole un attimino. Vabbè, ma sei una pippa. Cioè, il tempo passa, non allora, è che aspetta la musica. Sono d'accordo che sono una pippa, perché ho anche detto una minchiata, grande quanto una casa, giusto? Capra, capra! Non me ne sono accorto. Sì, beh, hai corretto tu, non te ne sei accorto. Ah, ok, ma era fuori onda, adesso, beh, se lo vuoi dire. No, l'ho detto anche in onda. Ah, sì? Eh sì, perché ho detto che i Grammy si facevano... Sì, sarebbero si facevano in vacanza, si facevano. Andavano in vacanza in agosto. Tra di loro. No, vabbè, non quella. Ma chi sono quelli Grammy? I Gremlins? Ho detto Gremlins. No, Grammy. No, ma è vero, a volte mi... Guarda che buttiamo un po' di acqua sui Gremlins, sì, diventano sì. brutti. No, i Grammy si sarebbero tenuti ad agosto, a metà anno, ma in realtà no. Si terranno sempre a Los Angeles. A gennaio. Credo sempre a Los Angeles come gli Oscar. Mo mi chiedi troppo. Insomma, una cosa io so fare una volta. E sì che la differenza meteorologica è abbastanza elevata. Non l'ho capito questo. No. Da gennaio ad agosto, ascolta. Vabbè, sì. Come dire, se io ero convinto di quello... Sì, ma lei si fa le previsioni. Sì, lei fa non le so previsioni. Cosa aspettando. È il suo compito ufficiale. No, cos'è che non hai capito, Tony? Sì, no, vabbè, ma niente, vai tranquillo. È giusto, no? Cioè, il meteo da gennaio ad agosto infatti, cambia un pochino, no? Certo, leggermente. Non è luglio-agosto, come si non dice, non tanto, no? Però cambia, giusto? È vero, ma dipende, però... ma dipende da dove stai nel mondo, però. Sì, vabbè. Vabbè, intanto che disquisite di queste cose molto meteorologiche, volevo dire che metteremo il prossimo pezzo mezza tonica. Già adesso? Sì. Ho fatto un po' di rimescolamenti. Non ti piace l'orario? Aspettiamo un minuto. Cioè, ma mi ha fatto lo short. Neanche mezza tonica, un short. Subito. Vabbè, allora lo annuncio. Sì. Allora, Fibo Slim, chi è che non lo conosce? Vabbè. Chi è? Dai, avanti, dimmi chi è. È un tizio. Vabbè, famoso DJ e produttore, musicista inglese, che nel 2001 da un album... No, quello mi fa ridere. Come faccio a fare il DJ professionale? Devi fare allora, serio? Nel 2001... Cosa ha fatto sto tizio? Beh, è andato a sentirsi una canzone dei Doors. Anzi, non è che è una canzone, è una poesia. Tratta da American Prayer. E la canzone si chiama Bird of Prey e lui ha estratto l'audio, diciamo l'inciso, sì. E ci ha costruito su un'altra canzone. Ok. Che quindi, poi il titolo è Sunset, dunque preciso. E la moda, diciamo, che c'era nell'epoca di fare le campionature. Ma lui campionava, poi ho visto... Lui che ha lanciato proprio il genere delle campionature. Sì, perché ho visto anche un video dove lui campionava qui, cioè faceva vedere... Come faceva le campionature, queste cose qua. Andiamo a ascoltare quindi Fatboy Slim con Sunset Bird of Prey. Flying high, bird of prey, bird of prey, in the summer sky, flying high. Flying high, flying high, take me on your flight, flying high. Stavamo conversando. Scusa. Scusate se vi disturbiamo, sai, siamo in un programma, quindi siamo tutti programmati. No, non vi scusiamo, non vi scuseremo mai per perché? Questo. Perché? Comunque sì, dai, ci stava. Questo ci stava sul mare, però più, secondo me, alba. Questo sì, più all'alba, vero, ce lo vedo più all'alba, no? Sì. No, quando beh, lui... sei lì a raccogliere le conchiglie. O le patate. Beh, lui però mette questa musica quando fa i suoi DJ set. Non Blanc. Era volgare, il campo di... cioè, sempre devi sempre vedere il volgare, non era volgare. Veramente io non ho detto niente, hai fatto tutto tu, Stanotte con il sogno, mo con le patate, allora... La smettiamo qua? È una cagata pazzesca! Ecco. Ti sta bene. Sì. E vabbè, dopo queste cose che diciamo ci ha anche ricordato il buon Paolo Villaggio di quello che stiamo facendo questa sera, niente, io avevo pronto la sigla per il meteo. Quindi sì, se ci siamo, direi che sarebbe anche ora di ascoltare un po' il meteo. La conosci, vero? Come no? Buonasera. Devi fare anche così con la testa. Buonasera. Rieccoci al nostro Deborah meteo. Colpo di vento. Rieccoci al nostro meteo. Perché dove, previsioni dove era andato? No, è bello perché cioè, se fosse in televisione l'avrebbero già cacciata. Non puoi ridere, mezz'ora. No, però mi sa che, anzi, più sei incapace a dire le previsioni, più mi sa che ti tengono. Dici? Sì, tengono pare... solo le case. Vabbè, intanto aspetta che le dico. Va bene, dopo previsioni parliamo. Del tempo, vai. Allora, aia, domani se avete programmi, abbandonateli tutti. Ehi. Vi consiglio di stare a casa sotto le coperte. E là, che succede? Nuvoloso con pioggia, ehi. Cielo in gran parte nuvoloso. Ehi. Temperatura minima di 2 gradi e massima di 8. Andiamo vento bene. Debole. Quindi... Che vi lamentate? Dobbiamo mettere gli stivali, cioè... quelli in plastica di gomma là, per sì. uscire. È una scusa per metterli. No, è una scusa per stare a casa. Ah. Invece io dovrò uscire per forza, quindi. Mannaccia. Brutta storia. Sto freddo. Ma in settimana, com'è la storia in settimana? Migliora? Aspetta. Ma allora, ma che servizio Epson di oggi va proprio troppo. Scarso. Cioè, io non lo fuori so, servizio. No, un momento, perché avevo già chiuso tutto e poi... Hai chiuso le persiane. E poi il buon Domingo là mi rompe sempre le scatole. Dico alla signora Deborah allora, che se vuole parlare c'è un microfono apposito. È anche aperto. È anche aperto. No, durante la settimana dovrebbe essere abbastanza soleggiato. Lunedì nuvole col sole, temperatura... Come le stai tirando a caso? Come le peri previsioni. Però la massima dovrebbe essere 12 gradi mercoledì, soleggiato. Va bene, dopo queste buonissime notizie... Da 9 gradi. Speriamo che migliori, perché adesso peggiorare non può peggiorare. La guerra tra di i solito, vari siti. Di solito il mio è abbastanza affidabile. Vabbè, tira giù, Però... Tiriamo giù la saracinesca. Sì. Adesso andiamo ad ascoltare i brani che volevo mettere settimana scorsa, che in realtà poi non ho più messo. Dunque, la classifica? Sì, gli ultimi, diciamo, i 5 brani un po' della classifica. Ma partiamo dal primo o dall'ultimo? Dal quinto. Metto Bravo. Solo i primi 5, perché la classifica è 10 brani, sennò facciamo E gli altri dove li possono andare a vedere? Sulla pagina Facebook. Ma in realtà anche sul sito di Wolf Trips, che se lo trovi anche da Google. C'è anche il site? C'è anche un sitarello... dove poi dopo aggiorniamo tutte le puntate in podcast. Ok. Che ci ascoltano in tanti. Grazie ragazzi, vi ringraziamo, grazie. E li salutiamo tutti a uno. Sì, sono tanti. Anche l'ultima puntata anche molto, dopo ti farò vedere. Wow. Siamo tipo quelli di Striscia che si bullano. Ehi. Andiamo Secondo a ascoltare. Secondo me ascoltano solo le canzoni, le nostre cazzate. Magari invece il contrario, che ne sai? Dici? Vabbè, comunque è sempre una bella cosa, un bel risultato. Infatti. Andiamo ad ascoltare quindi il quinto brano, diciamo, della classifica, che è Billie Eilish con Vines Staples. Ah, dove l'hai presa? In Puglia. E il brano si chiama Born, Mr. Born. Ah, ok, l'uno non era... No. Lips meet teeth and tongue. My heart skips 8 beats at once. That's better. If we were meant to be, we would have been by now. See what you wanna see. All I see is him right now. Him right now. I'll sit and watch your car burn with the fire that you started in me, but you never came back to ask it out. Go ahead and watch my heart burn with the fire that you started in me, but I'll never let you back to put it out. Thanks. Your love feels so fake. My demands aren't high to make. If I could get to sleep, I would have slept by now. Your lies will never keep. I think you need to blow them out. Blow them out. I'll sit and watch your car burn with the fire that you started in me, but you never came back to ask it out. Go ahead and watch my heart burn with the fire that you started. Still remember that heaven sent a present my way. I won't forget your laugh, packing everything when you leave. You know you coming back, wanna see me down on my knees, but that was made for a ring. I try to wait for the storm to calm down, but that stubborn bit be leading the war. We drawn down on each other, trying to even the score. We all been found guilty in the court of a order. Now watch your car burn with the fire that you started in me, but you never came back to ask it out. Go ahead and watch my heart burn with the fire that you started just to me. But I'm never let you bow to put it out. Watch your car burn. I won't forget your laugh. Ai ai ai, Tony impreparato. No, perché? Dimmi, perché? Le cuffie, le hai messe all'ultimo, non si può questa cosa. Va bene. Beh, allora le cuffie sono, sono due casi: o le tieni su tutto il tempo, però dopo un po' ti, diciamo che perdi i capelli, è vero, okay, per quello che io li perdo. Ah, ecco. oppure vedi, le metti all'ultimo. Vedi che sta andando in piazza anche lui, quello che dicevamo prima. Vabbè, è così, devo farci. Ti piacerà sempre. Ma no, comunque vedi, scendono i capelli, cioè dall'alto vanno in basso. Ma che barba che c'ho, infatti, anch'io. Sono tutti i capelli. Ma infatti, guarda che sì, se vanno ancora più giù, Se io mi giro, è come se avessi i capelli. Ah. Ok, vabbè. Vabbè, io stavo dicendo prima la battuta prima, a proposito dei... No, ma tu stai capendo cosa, con chi ho a che fare? Sì, ma anche l'altro socio. No, ma io volevo dire che tu dicevi che i peli vanno sempre più giù, no? E allora mi è venuto in mente foresta equatoriale, ma non troppo. È bella, no, eh? A me cosa io intendevo le punte dei piedi, cioè le unghie con i piedi dopo. Mi sa che c'ho più unghie che piedi, comunque. Cioè quindi, le unghie con i peli. Quindi è giusto per avere... questa scenetta mi sta facendo venire in mente Ragazzo di Campagna. Ah, sì? Mamma mia. Sì. Quando devono tagliare le unghie. E poi alla fine fa, no, vabbè, lascia stare che passo dal carrozziere. Grande Renato Pozzato di Luino. E tra l'altro anche ieri sera abbiamo visto un film, c'era lui, no? Non mi ricordo. No, ieri sera abbiamo visto Checco. No, c'era lui, no. Era un altro film che c'era... No, un po' di sere fa. C'era un film, sì, che lui era, diciamo che è un po'... Bravissima, perché era con... Era lui, era già, diciamo, un po' avanti con gli anni. C'è il marito della Vanoni. Bravissima. Grande, abbiamo... Vanoni, è una Vanoni. Oggi non abbiamo la critica di cinema, però abbiamo chi ci dà i giusti suggerimenti. Sì, perché salutiamo l'ha visto l'altro giorno. Sì, perché qua... Ciao Erika! Ciao Erika! E la prossima volta, la Chiara Francini, presentacela di persona, soprattutto a me e a Domenico. No? Anche no. Anche no? No. A me va bene. Non ti arba? No, va bene, va bene. Ehi, ascolta. Prendiamo le situazioni di petto noi, ecco. Oppure di... vabbè. Altra canzone al numero 4. Di plero da sola. Andiamo avanti con la musica, che poi, che sennò quella situazione inizia a diventare, a degenerare sempre di più. Tra un po' ci trovano seppelliti con la radio. Tu avevi detto i 10 posti, uno ne hai detto. È vero. Cioè, adesso ascolta, andiamo a recuperare anche gli altri 9. Ero un piccoglione a me, dopo te. No, ma è così, almeno non, è meglio proprio non dirli neanche, così uno non ci va. No, è perché poi dopo, sai, la discussione è andata virando su altre mete, allora abbiamo... Sì, vabbè, vira, dimmi. Vabbè, andiamo a ascoltare adesso i Cromeo, che è un gruppo... Ah, si dice Cromeo? Perché? Come lo chiami? Cromeo? Ma che ne so, io mi invento Cromeo, le cose. Cromeo? Sì, Cromeo. Cromino, buono. No, ho sentito un'intervista e loro si chiamano Cromeo, si fanno chiamare Cromeo. Ok. Con Juice, che è un remix dei Purple Disco Machine. Loro fanno una musica molto... Funky House. Sì. Quindi diciamo... ci ascoltiamo il brano, poi mi dici dove ti devo mandare in vacanza. Va bene. Poi siamo tornati negli anni 70, giusto? Sì, veramente sembrava di sentire un vinile che girava. Non sarebbe stato no, male. No, bella, bella questa canzone. Sì, un disco che potrebbe essere anche dei... Dei chic, te dicevi? Chic, sì, chic, tutto chic questo, molto... So chic. So chic. So fric, so chic, chic. Sì, sì. Proprio loro, proprio loro. Va bene, quindi visto che mi hai cazziato sull'argomento del giorno, adesso lo riprendiamo. Però in Però intanto ho prenotato il cibo che veramente... Vabbè, quindi se volete farci Gente, compagnia ci trovate qua a Samarate, a Magnate. Sì. Non facciamo fare proprio, diciamo, completamente pubblicità. Ah, sì, per Papa, Samarate, ecco. Andiamo a mangiare, se volete venire a trovarci. Non offriamo, no. Bravo, al massimo ci offrite voi, ecco. Va bene, una quindi... Una diretta fa sempre bello. Allora, a te piace camminare, a te... Sì, sì, a me piace camminare. Ecco, sì, io sì. Ho proprio un posto giusto per andare a camminare, che è Caminito de Rei, in Spagna. Sì. Adesso, vabbè, farò vedere le foto a voi e... Quindi per te è perfetto! Sì, per... Poi non dispiacerebbe perché te sarebbe perfetto, seriamente. Sarebbe una. Praticamente è una strada, una specie, una sorta di passaggio di circa 300 metri. Sì, però mi devi dire perché è pericoloso. Infatti, sto dicendo. Allora, praticamente non ha protezioni ed è sospeso a 600 metri di altezza e sono morte tante persone. Ah, prenotiamo, Deborah. Tant'è che l'hanno chiuso al pubblico, però si dice che comunque gli escursionisti ci vadano lo stesso. E ci sono addirittura dei punti, non si vede in questa foto qua, ma se andate a cercare qualcosa su internet lo trovate, in cui non esiste proprio il passaggio sotto, ma ci sono solo dei sassi e bisogna arrampicarsi sulla roccia per passare da un lato all'altro. L'ho visto io. Sì? Sei andata? Sì, sono andata. Quindi diciamo che sì, non è sempre salutare fare una allora passeggiata. Allora no, dobbiamo trovare un posto più pericoloso, Deborah. Dicevo, non è sempre salutare il bagno di casa. Ma il bagno di casa, cioè tu mi dici che hai un bagno di casa orribile. No, non è non che so se mi hai visto Shining. Hai visto Shining? Sì, certo. Sai quando lui va nella camera 208 che c'è la tizia che esce fuori dalla vasca? Sì, sì, no, ho visto. Come viene in mente quella cosa lì? No, non così, dai. Ma non è brutto. E allora, è lui che Ma lo dice. No, sto dicendo quando uno magari lascia ricordini. Lascia le virgole. No, diciamo la parte virgole, la parte punti aerea, virgola. Diciamo la parte di aria, ecco. Ah, vabbè, sì, ma come tutti i bagni, tutti bagni che sì. È una battuta. No, esistono anche queste cose fantastiche che hanno inventato che nessuno usa mai. Io lo uso sempre, lo mi piace un sacco. No, si chiama deodorante. Ah, sì. Ma sai che deodorante puzza, non è che fa sempre un bel effetto. Vabbè, spruzza e poi vedi come cambia la pubblicità. Presente la pubblicità quella puzza che puzza. Quella cosa lì essenzialmente. Vabbè, usciamo dal bagno, dai. Usciamo dal bagno e andiamo ad ascoltare il brano che in realtà adesso è il numero 3. Che adesso io non so come si pronuncia, non lo so. Ok, adesso io ci provo. Vai, prova. Allora, attenzione. Allora, questo è l'artista. Zu, non è una donna, ho guardato bene. No, non è una donna. Ha cantato la Faded, cavolo. Dopo mi è venuto in mente che era Faded. Chi? È una canzone che andava molto due anni fa. Zu comunque sarà cinese. Zu? Sembra di sì. Cerca. Non cinese, sicuramente è americano di origini cinesi. Dici? Sì. Chattam. Vediamo. Poi? Ah, abbiamo Skrillex, ma lui... Il più bel pettinato DJ del mondo. Sì, anche con tutti quei brufoli, non so. Cioè... Ha mangiato tanta cioccolata. Sì. Che però qualche volta dovremmo mettere un pezzo di quando lui cantava nel suo gruppo. Sì. Non era neanche male. Cioè, ha fatto anche dei remix rock molto, molto belli. Sì, per ufficiali o... Ufficialissimi, sono usciti sul loro CD, dei Korn. Ha fatto dei remix per i Korn. Sì, ma i Korn non messo... No, però ha fatto dei remix... Ah, Korn! Potevamo mettere mai Adidas, lasciamo stare. E poi ci sono i Day, che in realtà è un gruppo rap. Io intanto passo dei brani loro e non mi dispiace. Ah, loro, sì. E il brano si chiama Working For, quindi lavorare per la gloria, per la patria. Per la patria, comunque, per la pace. Comunque, avevate ragione. Cioè? Cantante, produttore, discografico statunitense di musica elettronica. Ottimo. DJ anche. Let me see if I can give you better. Lasciatemelo dire, se lui è un gran bel ragazzo. Ma tu scusami, hai guardato anche Skrillex? Anche lui è proprio è bello, eh? Cioè, è bellino, no? È il lato oscuro della canzone. No, vabbè. No, dai, il pezzo non era male. A me sì, non no, no, me l'hai fatto scoprire te. Anche, anche se in realtà, devo dirti la verità, è in discesa nella nostra classifica. Quindi vabbè. Non è che può restare sempre, insomma, insomma. Vabbè, ma la classifica è giusto che si muove anche che qualcosa. Che si muove, sì, sì, sì. Abbiamo anche tanti pezzi nuovi adesso per le prossime settimane. Ok, sì. In realtà Skrillex canta anche Vivo sempre insieme ai miei capelli. No, perché? No, quello è Nicolo Fabi. Ma guarda che cosa c'ha in testa. Ah, sì, sì, sì. Sì. Sembra nominato anche dagli amici Skrillex. Vabbè, e dopo chiudete no tutto. Comment. Chiudete l'internet. Io me ne vado senza salutare proprio, cioè veramente. Vi aspettiamo. È una pena questa cosa. Va bene. Procediamo questa nella radio sta perdendo il senso dell'essere. Abbiamo una sorpresa. Almeno. Sì, sì, procediamo nella classifica. Questa qua era la canzone che abbiamo ascoltato, in realtà l'unica. Ah, oh, questa mi piace. Allora, Domenico di però titolo. Io preferisco, scusami, l'originale. L'originale. Ah, che noia, che noia. Che barba. Sono d'accordo, va bene, ok. Però diciamo che questa qua era l'ex numero uno della settimana scorsa. Ah, adesso... sì? Pure? Sì. C'hai una ex numero uno? Numero uno, bravo. Abbiamo una ex numero uno. Che alla fine del programma lo facciamo insieme. Non quindi... li ha presi abbastanza stamattina, allora. E il brano è di Autograph, che probabilmente è uno che boh, fa gli autografi. Uscirà? Come canzone o rimarrà non prodotta? Non lo so, adesso andiamo a farci una ricerca a vedere un po', perché ho la sensazione che sia già stata prodotta. Adesso sì? Vado a fare una ricerchina. Okay. Ed è, attenzione, il titolo è... Aspetta, sì. Attimo Smells di Like Teen Spirit! Ok, che non Deve è quello... Dirlo che... Devo dirlo io, però mi hai rubato proprio la scena. Sei proprio una prima donna, ecco. Uè, primo ex, vai! Andiamo ad ascoltarlo e riprende, perché l'altra volta abbiamo detto che non riprendeva, poi dopo riprende il testo della canzone che tutti abbiamo in mente, però cambia completamente tutto, stile, tutto quanto. Thank you. qui abbiamo pareri contrastanti, perché c'era qualcuno che diceva che gli piace, qualcuno non gli piace, qualcuno... No, allora, io l'ho messo fin dall'altra volta che non io preferisco... Piace. Non è l'originale. Che non mi piace, preferisco l'originale. Ma io credo che non ci può essere neanche il paragone. Sì, infatti. La base... fosse stata un'altra canzone, ok, però non so, dici avendo, che è bello, avendo comunque un'infanzia passata con questa canzone, dai, anche adolescenza. Un'adolescenza passata con questa canzone, cioè praticamente andava all'asilo io... ascoltando i Nirvana, no? Sì, grande, sì, sì. Vabbè, io sono infanzia giovane, cosa? Io sono giovane, no. Mica vabbè. Come voi, vabbè, vabbè. Infatti c'è un po' di mal di schiena, non so, l'artrosi. Tu no. Il bastone che vi ho regalato a Natale ce l'avete? Si è rotto, quindi... Usato troppo. Te l'ho usato da dartelo in testa, per quello che si è rotto. Sì, sì, proprio. Beh, una diretta la dovremmo fare da casa vostra, guarda. Aia. Apposta, mettiamo B Live sul tuo computer, se non so se ce l'hai. Sì, ovvio. Facciamo veramente un... Sì, però ci vuole il jinglettino, quello tipo... Infatti. Andiamo a ascoltare quindi l'ultimo brano. Soprattutto stamattina. Ma stamattina avete fatto il catch, come si diceva una volta, il catch. Cioè? Wrestling, il catch, combattimento. No. Il catch. Sta dicendo? Il catch. Si capisce da qua chi è il più vecchio. Infatti volevo dire che anch'io sono andato al concerto di Nirvana, vabbè, ma... Quanti anni fa? Quanti secoli fa? 23. Ma non sei stato anche a quel concerto lì di Bach? No, la carrozza non è passata. Di Verdi. Cioè, non lo so io. Vabbè, andiamo a ascoltare quindi il brano che in realtà è il primo in classifica per questa settimana. New Entry. No, vabbè, no. New Entry, in realtà, quello è, quello rimane. Al numero uno. Prova a dirlo tu perché io mi allora, un pappino stasera. Last to Live. Sì, il titolo. E l'autore? Il nome del gruppo. Quello era difficile. Last to Live era facile. E Louis the Child. Ok. Andiamo a ascoltarcelo. International. You took it off the table, then I put it back again. I'm really good at starting, but I don't know when it has to end. You're leaving in reality, I'm staying in pretend. Dai, questa era un po' meglio. No, perché ridi adesso? No, niente, stavo ridendo con il buon Italo del programma successivo. Che niente. Sì, che lo salutiamo. Lo salutiamo, salutiamo anche la sua dolce metà. Ma i treni che arrivano a Porta Garibaldi fanno... No, ha fatto la battuta. Aspetta prima. Che lo ammazziamo. Dovresti chiedere a Sam, che lui ci lavora proprio su Italo. E conduce la trasmissione con Italo. Ci infatti. Lavora su Italo, dunque. Però... piedi anche... Dopo fuori onda ti devo chiedere una cosa di Sam. Va bene, ok. Perché ultimamente mi sa che... Non so se è lui che sta alzando un polverone o qualcuno a lui collegato. È sempre polemico. Sam appunto è sempre polemico. Magari sei più informato sui fatti dopo. Va bene. Va bene, abbiamo concluso quindi la parte della classifica. Ormai siamo in anticipo, quindi ci sta il tempo di mettere un'altra canzone. Tu hai qualche altra cosa interessante da dire? No? Ok. Salutiamo adesso e facciamo andare la canzone. No, io ho una cosa interessante da dire. Te ci hanno mai mandato questa. Ok. Ma a proposito, no, ci sono gli altri 8 posti dove non si va in vacanza. Lo diciamo la prossima volta. È crollato il ponte prima. Lo diciamo la prossima volta. Sei passata te? No. Questa era brutta. Andiamo ad ascoltare l'ultimo brano di oggi, che è Yellow Club con City on Lockdown. Un brano super tamarro. What's America? Come si chiama? What's America? For me, let that motherfucker burn now. Tell these bitches, watch it. It's my motherfucking turn now. We blazing, blazing. Why you hating, bitch? We blazing, blazing. So amazing. Everything is heat, bitch. Hot chick, hot whip. Burn it like a furnace, bitch. Cause all I know is hot shit. We blazing, blazing. So why you waiting, bitch? We blazing, blazing. So amazing. Bitch, I'm on fire. Fucking geek, geek. I'm so fucking throw. I'm seeing in threes. I can't feel my face. Can't stand on my feet. Damn right I'm tripping. Ain't no better way to be. Let's do it again. This time let's do more. Let's blaze out till we pass out and wake up on the floor. I woke up with your hoe. My dick still in her mouth. Man, game so good that I could not dig her out. Bitch, I'm on fire. Oh yeah. Bitch, I'm on fire. Oh yeah. Bitch, I'm on fire. We got your city on the lock. Wall Street. I Viaggi del Lupo. E abbiamo concluso questa sera. Cosa c'hai? Cosa ti è successo? No, nulla. Facevi segni strani, segnacci, gestacci. Sì, ti devo mandare a quel paese. Oggi con le mani ci ha dato con te. Porca miseria, partita stamattina, non è finito più. Direi che è stato un buon giorno per te. Bellissimo, giornata bellissima. Però adesso è concluso bene, abbiamo fatto 2 ore di programma, tutto sommato. Adesso andiamo a mangiare. Adesso andiamo a mangiare. Ti diciamo che ci abbiamo anche un po' fame. Sì, quello sì, ovvio. Tu, Tony, spero che ti sei divertito. Abbiamo sparato un bel po' di cose interessanti, per non dirla in un altro modo. Di grandissime cagate. Ma anche giusto come ha scritto lui, chiacchiere da bar. Chiacchiere da bar, chiacchiere da bar. E poi salutiamo Fabio che se n'è già andato a mangiare. Sarà ciao Fabio. Ma che tette che c'hai, Fabio? È un po' cambiato. Sì, sì. Fabio. Salutiamo la Deborah bastato. Che è diventata quindi... super rossa. Ciao Deborina. Ciao. Salutiamo. Ciao Tony. Ciao ciao. Ciao Domingo. Saluti. Salumi. Ciao Cristina. E ciao Cristina. Vattene a letto a dormire che è meglio. Noi due quattro andiamo adesso a mangiare qualcosa insieme. Siamo molto convinti. Sì. Sì. Va bene, no, va bene. Oh, io ho prenotato, c'ho fame. E adesso andiamo a mangiare. Non rompete le balle. Lasciamo la cloche e il potere al programma successivo. Certo che dopo. Salutiamo di nuovo e Wolfman Jack. Vi lasciamo la palla, la patata bollente, diciamo. Stiamo arrivando. Va bene, noi ci sentiamo settimana prossima. Sì, non dovremmo avere nulla di strano in programma. No, venerdì non c'è niente di partite e via dicendo. No, meno male. Okay. Quindi niente, ci sentiamo settimana prossima. Buona settimana. Ciao. Ciao. Radio Lupo Solitario dal 1979 ti regala emozioni rock. Per la tua pubblicità contatta il 349-77-31-166 oppure scrivi a commerciale@radiolupo.it. La tua pubblicità su Radio Lupo Solitario.